Mix 24 di Giovanni Minoli. Non si può negare il fatto che il Jobs Act funziona. Questi 247.000 posti di lavoro ci sono. Just because we get around. Come bolle di sapone, l'effetto positivo di Jobs Act e sgravi sull'occupazione è già in parte volato via? Di sicuro una frenata c'è stata. Grazie a questo Jobs Act possiamo assumere più persone. Il costo del lavoro rimane invariato. Possiamo dire che molte centinaia di migliaia di lavoratori italiani che prima avevano un contratto precario oggi hanno un contratto stabile. Adesso che gli incentivi calano, l'occupazione è crollata di 93.000 unità. Jobs Act non ha avuto nessun effetto. A fronte di una decontribuzione che è costata allo Stato 2 miliardi circa, abbiamo avuto appena un incremento di 37.000 posti di lavoro. Io lo definirei un fallimento. Vabbè, le posizioni molto contrastanti. Luigi Bobba, buongiorno, sottosegretario al lavoro con la delega ai giovani. Ecco, partiamo da qui. Il Jobs Act è un fallimento? Buongiorno. Assolutamente no, credo che sia la riforma più importante, anche la prima che il governo ha attuato. L'intento era chiaro, quello di creare delle condizioni perché le imprese potessero cogliere al meglio una ripresa ancora. E secondo lei ha avuto successo? Beh, i numeri credo che siano sufficientemente chiari, no? Quello che è accaduto proprio nello scorso anno. Se guardiamo in particolare per i giovani sotto i 30 anni, sono stati 307.000 i nuovi contratti a tempo indeterminato e sono stati altri 156.000 pur contratti che sono stati fatti, anche se non decontribuiti. Ecco, però l'INPS parla con chiarezza di un rallentamento dei contratti a tempo indeterminato e il vostro ministero, il Ministero del Lavoro, dice che il calo delle assunzioni era prevedibile, cioè non ci credevate neanche voi troppo allora al boom del Jobs Act? No, ma semplicemente questo calo, come dire, è fisiologico, legato al fatto che a dicembre ci sono stati circa 400.000 contratti decontribuiti. Era evidente che le imprese, avendo la possibilità di avere una decontribuzione particolarmente, cioè finiti gli sgravi è finito l'effetto, diciamo. Beh, non sono finiti gli sgravi sono stati, diciamo, rimodulati, certo, adesso sono meno favorevoli di un tempo. Però guardi, l'indicatore vero su cui considerare, sì, la possibilità che l'occupazione si incrementi, perché comunque anche in questi due mesi c'è stato un incremento, sono gli investimenti. Gli investimenti l'anno scorso sono passati da 1,1 a 1,9 e quelli stranieri sono cresciuti di circa 6 volte. Credo che bisogna guardare quel dato lì, perché è solo dagli investimenti che si capisce se c'è un contesto di crescita. Ecco, senta, onorevole, gli incentivi che il governo ha dato svolgono una funzione di spostare in qualche modo i contratti dall'area del precariato flessibile all'area del tempo indeterminato, sì, e credo che questo sia un obiettivo che tutti possiamo condividere. No, come obiettivo di sicuro, stiamo facendo la valutazione del percorso, non dell'obiettivo. Onorevole, i contratti a tempo indeterminato, che erano diventati una specie di mosca bianca, certo, sono aumentati di quasi 10 punti nel 2015, quello è un dato, nella, certo, composizione è un dato. Credo obiettivo. Senta, onorevole Bobba, però serve più tempo per vedere gli effetti stabilizzati e certi del Jobs Act e valutare quanto siano davvero strutturali o quanto siano valutabili come passeggeri? Ci vuole quanto, avete previsto quanto tempo, insomma, il tempo in cui si può dare un giudizio che non sia solo, diciamo, o propagandistico oppure critico? Ma guardi, diciamo tre cose brevissime. Sì. La prima, i nuovi posti di lavoro non dipendono esclusivamente o prioritariamente da questi incentivi, ma dal fatto che la crescita mantenga i rapporti. Beh, è chiaro. Secondo punto, sicuramente per i contratti a tempo indeterminato, io credo che questi incentivi produrranno nel tempo un effetto sostanzialmente duraturo. E questo perché oggi costano meno di quello che costano i contratti cosiddetti, certo, flessibili o atipici. Ecco, senta, no prego, scusi, no, dica la terza. Sì, terzo ed ultimo aspetto, è chiaro che, diciamo, come ho detto prima, se il ritmo degli investimenti sarà ancora quello dell'anno scorso, avremo una stabilizzazione di questo fenomeno. Ecco, senta, onorevole Bobba, Boeri, ieri, lei si occupa dei giovani, c'è la delega, ieri ha parlato di un rischio per intere generazioni a causa della disoccupazione giovanile. Questo è un rischio che voi pensate di affrontare come? Perché sono parole pesanti quelle di Boeri. Sì, sono parole pesanti, però diciamo così, guardare gli effetti di lungo periodo con lo sguardo dell'oggi non sempre, diciamo, ci fa cogliere dei fenomeni che poi possono sicuramente però cambiare. Però governare vuol dire anche quello. Governare vuol dire anche quello, vuol dire proiettare nel tempo le scelte. Allora fatte, io potrei rispondere che proprio il fatto di aver privilegiato e sostenuto i contratti a tempo indeterminato è un modo di affrontare quel tema che oggi pone Boeri, perché lì la contribuzione è certa e non volatile come era in una buona parte dei contratti di lavoro flessibile. Senta. Secondo, lo ha detto il ministro Padoan l'altro giorno di fronte alla Commissione Bilancio, certamente il tema di ripensare la flessibilità in uscita dal punto di vista pensionistico è un elemento importante, perché questo favorirebbe il turnover, cioè quindi diciamo l'ingresso di giovani al lavoro. Poi il come fare questa flessibilità in uscita mi sembra che sia un grandissimo tema di discussione. Ecco, certamente, perché le soluzioni sono tante, tutte diciamo apprezzabili, il problema è vedere diciamo il costo di questa operazione. Senta, onorevole Bobba, intanto l'Istat però certifica che il PIL è fermo a più 0,3%. Ieri il presidente Alleva ha detto per l'obiettivo del più 1,2 serve un'accelerazione, del più 1,2 eravamo 1,8, 1,6, adesso l'obiettivo è 1,2, serve un'accelerazione. Che si fa per questa accelerazione? Beh, intanto sono state introdotte proprio nella legge di stabilità un insieme di misure che tendono a favorire diciamo proprio gli investimenti delle imprese, pensiamo al tema del superammortamento, pensiamo all'investimento che il governo sta facendo su tutte le grandi infrastrutture, l'annuncio che è stato fatto proprio l'altra settimana sulla banda larga, che è uno degli elementi che può accelerare fortemente la crescita. Ahimè, siamo un paese molto indietro da questo punto di vista. Il terzo aspetto, il fatto che diciamo così ci sia la possibilità, questo è un dato, che comunque i consumi delle famiglie siano mediamente cresciuti, probabilmente questo è uno degli elementi che può accelerare la domanda interna, che è quella che diciamo, poco. È stata più fiacca. Senta, c'è un nostro ascoltatore, Sandro Belli da Roma, che scrive una cosa che le giro perché mi sembra molto interessante. Dice lui, spiegategli che i nuovi contratti sono solo conversioni e che le aziende sanno già che licenzieranno i nuovi assunti tra 3 anni, quando aumenteranno per loro le tutele per i nuovi assunti senza tutele. Ecco, cosa risponde a Sandro Belli? Che le conversioni sono state, diciamo, un po' più di un terzo. E voglio dire, spiegare all'ascoltatore che un giovane che vede un contratto a tempo determinato, una collaborazione o una partita IVA trasformato in un contratto a tempo indeterminato, va da lui a spiegare a questo giovane che non è una buona cosa. Credo che insomma sia anche questo un dato evidente, no? Le conversioni sono comunque un elemento positivo, perché è diciamo svuotare non sono nuovi contratti precari. Come? No, non sono nuovi contratti, ma sono la trasformazione di un contratto precario in un contratto invece a tempo indeterminato, quindi sono un vantaggio, non c'è dubbio. Certamente, ecco, non credo che non sia apprezzabile anche questo aspetto. Certamente, ho detto licenziare prima, naturalmente possono sempre, questo dipende dall'andamento dell'economia. Ma guardi, un'impresa assume se ha opportunità, se ha prospettive, non è che come dire, licenzia così per il gusto di licenziare. Senta, no? Quindi... senta, lei che si occupa di giovani, onorevole Bobba, garanzia giovani, vorrei parlare un momento di garanzia giovani, per cui sono stati stanziati 1,7 miliardi, è stato abbastanza un fallimento, perché 1 milione di persone registrate, solo il 3,7% ha trovato un lavoro e ogni posto di lavoro è costato 36 mila euro. c'è qualcosa che non funziona. Guardi, quel suo collega che ha scritto quell'articolo probabilmente non ha letto come funziona, diciamo, il programma Garanzia Giovani. Il programma Garanzia Giovani prevede 9 misure che facilitino l'occupabilità del giovane. Una di queste misure è un primo inserimento lavorativo, ma c'è anche una formazione specializzata, c'è anche il tirocinio, c'è anche il servizio civile, c'è anche il sostegno all'autoimprenditorialità. Se avesse letto un po' più attentamente tutti i dati, avrebbe visto che degli 850.000 circa giovani che si sono iscritti a quel programma, 2/3 sono già stati, hanno incontrati dai centri per l'impiego. No, incontrati dai centri per l'impiego non vuol dire assunzione. Vuol dire andare come a parlare, no, dico, sì, però le opportunità che sono state date a quegli 850.000 riguardano più di 320.000 giovani, quindi se bisogna fare un conto bisogna farlo su quei 320.000. E quindi lei dice che non è vero che è costato 36.000 euro un ma posto, no, perché lui ha diviso il totale delle risorse oggi impiegate per i contratti di allora lavoro, dica, di prima inserimento. Mi dica quanto è costato secondo il governo questo, ognuno questo di questi programma, posti, no? Questo programma ha complessivamente a disposizione 1 miliardo, allora questo e l'abbiamo mezzo. Detto 1,7 miliardi, sì. No? 1,7 miliardi. Ogni misura costa mediamente circa 3.000 euro, considerando che sono state offerte misure a 320.000 giovani, sono stati impegnati circa 900 milioni finora, c'è ancora, diciamo, da completare il programma fino al termine quindi dell'anno. Quindi lei lo considera un successo Garanzia Giovani? Ma guardi, un successo, no, come sì tutti o no. I programmi. O sì o no? Beh, come tutti i programmi, diciamo così, contiene degli elementi sicuramente positivi, perché quei giovani comunque... E i limiti quali sono? I limiti è che, diciamo, questo programma per poter incidere seriamente ha bisogno di essere rinnovato, di durare nel tempo, e che quella forma di accompagnamento, orientamento, di servizi per il lavoro diventi un elemento ordinario, strutturato, perché è fondamentale che un giovane nel momento in cui deve inserirsi al lavoro, dove quando ha finito una formazione o quando deve reinserirsi perché non ha acquisito un qualche titolo di studio, ci sia qualcuno che si occupa di lui. Senta, onorevole Bobba, no, scusi, la stringo un po' perché il tempo corre e le domande sono tante. Volevo dirle, ieri l'INPS parlava anche del calo delle assunzioni private a febbraio 2016 del 12% rispetto all'anno precedente. E ve l'aspettavate questo? Ma è tanto, guardi, è tanto. No, ma ho già detto prima che, diciamo così, l'effetto, diciamo, che di maggiorazione che c'era stato negli ultimi mesi, in particolare nel mese di dicembre 2015, derivavano non poteva che produrre, diciamo così, quell'effetto anticipo sulle assunzioni, poi dopo avrebbe visto un calo nei primi mesi dell'anno 2016, ma io sono convinto che se la curva degli investimenti manterrà, diciamo, un trend positivo, avremo anche un trend positivo anche dal versante occupazionale. Un'ultimissima cosa, onorevole Bobba, la ringrazio, ma quei 2 milioni di NEET che non studiano, non lavorano, non si formano, che si fa? Appunto, ho detto che il programma del governo, l'intento del governo è quello di rinnovare e rafforzare questo programma. Denominato Garanzia Giovani, c'è una proposta che verrà formulata proprio all'Unione Europea da un lato, dall'altro lato abbiamo messo in campo un'altra serie di misure che riguardano per esempio la creazione di nuova impresa da parte dei giovani. D'accordo. E c'è un riscontro molto interessante ed è un'altra strada. Certamente anche il tema, un altro provvedimento collegato al Job Act, del cosiddetto avvio del sistema duale dell'alternanza scuola-lavoro è un modo di dare quell'alternanza scuola-lavoro che sarebbe importantissima. Mi sembra che siamo ancora al palo abbastanza, come esperienza. Siamo nella fase di avvio, d'altra parte la legge prevedeva questo anno il primo anno sperimentale, quindi d'accordo. Diciamo siamo in una fase di dover insistere molto su quella cosa perché è importante, aiuterebbe moltissimo sviluppare come in Germania questo aspetto. Grazie onorevole Bobba, grazie, buon lavoro. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, gli sms. Mario, insomma, la prima valutazione del Job Act fatta da te qual è? Ma dunque, che ovviamente le intenzioni, no, le intenzioni erano più che buone, no? Ma ormai le intenzioni vanno verificate nei fatti. Il problema è che sono conversioni di contratti già esistenti, i posti di lavoro creati in relazione alle aspettative, soprattutto, che si erano create, sono pochi. C'è il problema del fatto che è legatissimo all'incentivazione. Vabbè, e quindi le i contratti sono interessate, sono sì, legati a questo. Ne discende che mancano provvedimenti per stimolare la domanda. Perché quello poi è il questo punto, se non ci sono gli investimenti e se non si sviluppa l'economia, me, dal lato della tipologia di lavoro c'è poco da fare. E poi ci sono sottovalutazioni enormi di altri fenomeni che sono in corso, tra automazione, trasformazione del lavoro. In Italia il lavoro lo trovano, perché questo è il dato secondo me incredibile, ne trovano poco, sono gli ultra cinquantenni. Cioè non c'è lavoro per le fasce 15-24, 34-50. Domani parleremo proprio di questo tema. Poco lavoro per chi ha un'età avanzata già, e in genere sono stabilizzazioni addirittura di altri rapporti. Vabbè, domani parleremo di questo. Con Pietrangelo abbiamo visto in questo periodo, in questi due anni, che il Presidente del Consiglio Renzi comunque ha dato una grande importanza sì alle cose che faceva, ma al racconto delle cose che faceva, e che naturalmente ci sta, perché chi governa deve fare, deve raccontare quello che fa, anche proiettandolo e anche infiocchettandolo, non è una cosa strana. Ma secondo te Renzi ha puntato troppo sullo storytelling famoso? Dov'è il punto di rottura con la realtà, se c'è, secondo te? Il punto di rottura con la realtà c'è, ma non è raccontato, a maggior ragione perché questa è una fase in cui tutti i giornali, tutte le televisioni sono appecoronate rispetto al totem di Matteo Renzi. Basterebbe sfogliare i dati delle Camere di Commercio e sapere quanti e tanti quante sono gli esercizi commerciali, le industrie, le aziende che sono chiuse in questo frattempo. E poi il punto di realtà, evidentemente io frequento una realtà che non corrisponde alla narrazione, perché nei mezzi pubblici, nelle strade, in metropolitana, ovunque vedo una realtà dove la disoccupazione non solo è aumentata, ma quei pochi che lavorano sono letteralmente sfruttati, a maggior ragione chi, avendo le competenze, avendo la specializzazione, avendo anche le qualità per entrare nel mercato professionale, viene sottoposto all'umiliazione di contratti a tempo, all'umiliazione di dover aspettare sempre. Vabbè, diritti diminuiti, insomma. Diritti, a proposito di questo, siamo pieni di diritti civili, sì, ma zero lavoro. I voucher hanno fatto più 45% negli ultimi due mesi. C'è da riflettere su alcuni strumenti. Chi c'è? Marco D'Ancona, buongiorno Marco. Buongiorno. Buongiorno, dica. Niente, io in tema di voucher ho la compagna che lavora come cameriera e praticamente fanno, fino a qualche anno fa magari aveva dei contratti a tempo, dei contratti a chiamata. Adesso fanno tutti quanti voucher, ma del tipo un voucher e 12 ore di lavoro, o due voucher e 13 ore di lavoro. E quando va bene la pagano in nero, quando va male ti sottopagano, che ne so, tipo 6 euro all'ora, cose di questo tipo, che non conviene, chiaramente non ci va nemmeno più. Vabbè, certo. Quindi se vedete il 45% di voucher, sappiate che in realtà moltiplicatelo almeno per 5. Sì. Quindi perché non. Sì, quindi è un fenomeno, grazie Marco, un fenomeno davvero drammatico e molto significativo, sì, sì, di come evolve poi realmente il mercato del lavoro. Gli ultimi dati indicano un'esplosione di questo strumento e secondo me è da monitorare con attenzione. Allora ha ragione Renzi quando dice che i media non raccontano il paese reale, ma sono autoreferenziali. Alberto Bagnai, economista, docente di politica economica all'Università di Pescara. Professore, del Job Act, lei pensa sempre che non sia una buona idea? Sono convinto che non sia una buona idea, lo stanno dicendo i fatti. Sono anche convinto che esistano delle profonde contraddizioni, che non sono solo quelle della politica che stigmatizzavo in questa frase, ma anche quelle della professione economica. Vi ho ricordato nel 2003 Francesco Giavazzi e Olivier Blanchard pubblicarono sul Quarterly Journal of Economics prestigiosissima rivista scientifica autorevolissima, un articolo per dire che le riforme del mercato del lavoro servono ad alterare il potere contrattuale dei lavoratori, possono avere un senso nel lungo periodo, ma nel breve periodo sono recessive. Siamo nella recessione più profonda della storia italiana. E quindi lei dice adesso per fare queste riforme. Riforme recessive, ma i 300.000 posti di lavoro dell'ultimo anno sono una realtà o no, secondo lei? Mi sembra che si sia raggiunto un consenso sull'evidenza statistica che queste sono state mutazioni di contratti da una tipologia a un'altra, cioè da contratti a tempo determinato a contratti in tempo indeterminato, a cosiddette tutele crescenti, che poi se le tutele crescono significa che quando iniziano non ci sono, il che in buona sostanza significa che comunque il licenziamento è facile, il che non cambia molto lo status di precarietà dei lavoratori. Senta, Renzi ha detto che lo storytelling è fondamentale per un paese, che bisogna farle le cose e raccontarle anche per dare l'idea dell'insieme. Lei è d'accordo? Io sono d'accordo che un governo debba comunicare, la comunicazione però deve essere basata sui fatti e non deve alterare l'evidenza statistica. Purtroppo ci sono stati episodi incresciosi, lei ricorderà e gli ascoltatori ricorderanno per esempio le polemiche fra il Ministero del Lavoro, l'INPS e l'Istat, gli effetti di questo tipo di manovre. Ecco, questo andrebbe evitato in ogni caso. Ecco, lo storytelling a parte, diciamo, il fondo di garanzia giovani è stato un fiasco, sostanzialmente riconosciuto da tutti, lo stesso ministero ad ammetterlo tra le righe dei suoi report, solo 3 su 10 trovano lavoro. Perché? Era pensato male? Che cos'è? Guardi, io temo che ci sia un grosso equivoco. Si possono fare le cosiddette politiche attive del mercato del lavoro quanto si vuole. Se il mercato non tira, se non c'è domanda, se non c'è crescita, credo che purtroppo qualsiasi cosa si faccia dal lato dell'offerta sia destinato a fallire. Quindi non sono gli strumenti, diciamo, che possono essere più o meno efficaci, ma è l'economia che non cresce. Beh, che l'economia non cresca, quindi il problema è lì. Mi sembra abbastanza evidente. Il problema è lì e purtroppo non è un problema che possiamo risolvere facilmente nel contesto europeo. Vorrei ricordare che se noi dobbiamo fare politiche che indeboliscono il potere contrattuale dei lavoratori è perché la Germania per prima ha iniziato questo approccio. Ricordiamoci che nel 2003 con le riforme Hartz la Germania lanciò un massiccio programma di precarizzazione della sua forza lavoro e lo fece fra l'altro finanziandola con soldi pubblici. Quando la Germania sfondò i parametri di Maastricht, cosa ricordata secondo me molto opportunamente dallo stesso Renzi, certo, e superò il famoso 3%, lo fece per finanziare esattamente questo programma. Esatto. Quindi forse quando io sento posizioni anche apicali del mondo industriale italiano vantare il modello tedesco, beh, questo modello si basa su una certa sottile slealtà, perché infrangere i parametri fiscali comuni per finanziare quella che è di fatto una svalutazione competitiva dei salari non è una mossa leale in una unione economica tra paesi. Senta, professor Bagnai, però se non è, se è un modello vincente come dice Renzi questo del Job Act, perché i numeri gli danno torto? Cioè la domanda è questa: ci vuole tempo per valutarlo veramente? Più tempo? Guardi, se noi aderiamo ai massimi economisti, ex economisti del Fondo Monetario Internazionale, Giavazzi, che la cui reputazione non merita, cioè non ha bisogno di ulteriori presentazioni, beh, allora noi possiamo anche cullarci dell'ipotesi che nel lungo periodo qualcosa funzionerà. Il problema è che nel lungo periodo, come diceva Keynes, saremo tutti morti. Certo. Qui ci vuole una politica congiunturale, questa politica congiunturale deve essere fatta sulla base del principio che occorre abbattere il tabù secondo il quale la banca centrale è indipendente dal governo, le banche centrali devono cominciare a finanziare massicciamente politiche di investimento. La risposta che sta dando l'Europa in questo momento è una risposta puramente monetaria, ma che è sempre condizionata dall'idea che la spesa pubblica non può essere finanziata con moneta neanche in condizioni di emergenza. E quindi invece bisognerebbe essere più keynesiani, diciamo, perché per sintetizzare. Ma Keynes, diciamo così, è molto odiato a sinistra, sa perché? Perché ha salvato il capitalismo in un paio di circostanze cruciali. Ora, il capitalismo può piacere o non piacere, però è la zattera sulla quale siamo tutti. Sì. Se vogliamo affondarla andiamo avanti così. Senta, un'ultimissima cosa, professore. Tito Boeri, che è presidente dell'INPS, parla di flessibilità in uscita nel sistema pensionistico perché, dice lui, c'è una penalizzazione molto forte dei giovani e c'è il rischio di avere un'intera generazione perduta all'interno del nostro paese. È il rischio vero questo? Ma non è un rischio, io credo che sia una certezza. Nel momento in cui, come chiunque può vedere, io in particolare ho fatto vedere, dati alla mano, la recessione di fatto ci ha portato indietro di quasi 15 anni nel reddito pro capite, c'è una generazione perduta, tutte le generazioni italiane che hanno vissuto questa crisi sono generazioni perdute. Io starei molto attento però nel discorso politico a vagliare con uno sguardo molto critico chi vuole mettere i giovani contro i vecchi, perché questa cosa, oltre a essere sottilmente immorale, secondo me non è come dire proficua dal punto di vista del discorso politico e di una composizione politica pacifica dei conflitti. Quindi io quando sento questi discorsi che l'egoismo dei vecchi distrugge il futuro dei giovani sono molto molto scettico. Ma è molto interessante questo finale di Bagnai. Ci abbiamo Cristina da Roma. Cristina, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, dica. Io volevo dire semplicemente che c'è un forte scollamento tra l'interesse del governo Renzi e i giovani. Perché? Nel senso che nelle loro politiche e nelle tematiche che hanno affrontato, che affrontano, insomma, i giovani sono ben distanti dai loro interessi. Io ho effettuato uno studio sui primi 100 giorni di governo Renzi su tutta la comunicazione diffusa sulla piattaforma Twitter. Sì, e allora? È emerso che su 13.000 tweet analizzati solo il 5% dei tweet si rivolge ai giovani, spesso in modalità completamente diverse da quelle che noi ci aspettiamo, perché comunque si rivolge ai giovani in termini di militanza, quindi... Sono i primi 100 giorni, signora, stava prendendo le misure del sì, lavoro che doveva fare il governo, grazie, con una curiosità, però quello che diceva Bagnai era interessante, ma no? Sul conflitto generazionale, sì, sono d'accordo. Anche perché è impostato in un modo che forse poi la realtà non sarà così. Sì, e poi c'è anche tutta la retorica della rottamazione. Esatto. No? Che insomma, stiamo attenti. Perché qua poi vorrei ricordare che l'Italia è il paese più vecchio del mondo, insieme alla Germania e al Giappone. Rottamiamo il paese, punto. L'età media in Italia è 44, l'età media in Egitto, tanto per dire un nostro alleato, è 24. Tant'è vero, Giovanni, che torna a rischia tutto. Esattamente. Quindi mi sembra... io starei molto attento a fare questo tipo di valutazioni. Posso dire posso fare un'aggiunta alle cose molto interessanti che ha detto Bagnai? Allora, la questione Keynes, secondo me è attualissimo il suo pensiero sugli investimenti pubblici. Sì. E non ci sono dubbi che l'Europa sia sotto questo punto di vista a un bivio. O sì o no. O sì o no. Ed è chiaro. C'è anche da ripensare, a mio avviso, il ruolo delle banche centrali nazionali. Perché Draghi, santo subito, diciamolo, perché se non c'era santo subito, se non c'era, se non c'era eravamo già tutti morti, no? Però qual è il ruolo oggi della Banca d'Italia? Va definito. Visco è ottima persona, lo staff dei Banca Italia pure, però che fa solo la vigilanza. Certo, appunto. E poi non fa politica economica insieme al governo. Cioè parliamone, secondo me è da riaprire questo tema. Sicuramente. Pietro, volevo chiederti un'ultima cosa flash. Noi abbiamo criticato Renzi sul Job Act, adesso posizioni contrastanti, eccetera, sulla politica economica. Ma c'è una cosa di Renzi che ti convince, perché tu sei fortemente critico, ma vorrei sapere se una cosa ti convince o sei a prescindere a priori contrario. L'unica cosa che mi convince di Renzi è Denis Verdini, per il resto... Va bene, 800 24 00 24, il numero verde 349 238 6666. È l'unica cosa buona che ha, santo subito, anche lui in questo pubblicità punto. State ascoltando un programma offerto da... Il colesterolo in eccesso può causare problemi al cuore. Danacol, grazie agli steroli vegetali, lo riduce fino al 10% in 3 settimane. Mix 24. Allora, Pietrangelo, tantissimi naturalmente messaggi scritti di ogni tipo. Uno addirittura arriva a dire che il problema in Italia è che i vecchi si ostinano a vivere, quindi diciamo che siamo veramente veramente, ma dove ci fanno i vecchi vivi? Molto difficile, problemi difficili da affrontare. Allora, partiamo con la tua canzone, Pietrangelo, va che mi arriva. A cavallo di un cavallo, oggi in metropolitana c'era un re. Andava in direzione della terra promessa e però chiedeva a tutti se per caso ci fosse una sala bingo prima di destinarsi alla meta, giusto per giocarsela la sua ghirba, se perdere tutto, pure il cavallo, oppure facendosi da re nababbo. Ha chiamato Stregatto, ha voluto questa canzone per fare più che una dedica, una domanda: ma davvero Alice se n'è andata via col maggiolone? È un'altra volta. No, l'abbiamo citato, io una volta il maggiolone gli è entrato in testa, non dritto, esce più, non esce ormai più. È fisso. Finisce che scappo con Mario. Sì, io e lui il maggiolone, pensa che spettacolo. Una tragedia per tutte le donne che ti scrivono. La molla, Mario, vai. Dai. Prima di scappare. And you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. You can rely on the old man's money. You can rely on the old man's money. It's a bitch girl. Allora, questa è Rich Girl, dei Rolling John Oates. Ma c'è Franco Schibani, il nostro musicologo, che insomma c'è un cartello, lo dobbiamo dire, è la notizia del giorno. Leggi, per lui e anche un po' per me. Axl Rose sarà il nuovo cantante degli AC/DC. Anzi, se cerchiamo gli AC/DC dopo li mettiamo. C'è una notizia, sì, una notizia. Vabbè, dai, andiamo avanti. Va Franco, lo sai, ammolla, che si ammolla ste robe. E occhio all'energia, non solo alle donne e ragazze ricche, che insomma sono molto pericolose. E la produzione italiana è stata tirata giù dai prezzi dell'energia. Andate a vedere gli ultimi dati e vi renderete conto dell'impatto che ha questa cosa. Ma stamattina c'è una notizia, secondo me, molto preoccupante, che ci deve far riflettere. Arriva da Berlino, perché i prezzi alla produzione in Germania hanno registrato una discesa del 3,1%. Annuale a marzo. È il calo più forte da 6 anni, e ovviamente sono i beni dell'energia a spingere giù tutto. E al netto dell'energia i prezzi della produzione comunque sarebbero arretrati lo stesso parecchio, perché parliamo di 0,9 annuale e 0,1 mensile. Fatta la sintesi, siamo in un territorio pericolosissimo di deflazione. E finora, adesso aspettiamo il prossimo mese, però anche la ricetta della BCE su questo mostra la corda. Io vorrei rispondere, siamo lontanissimi dai target. Vorrei rispondere a Alessandro Mastrocinque, vicepresidente della Confederazione Italiana Agricoltori, che vorrebbe parlare sul tema delle pensioni. Ci torneremo domani e eventualmente ne parliamo domani. Intanto Pietrangelo, il tuo salamino. L'Italia si riconosce nei riconoscimenti. Conoscendo se stessa, l'Italia non si riconosce mai, però, se ha uno come Giovannino Guareschi, faccio per dire, il padre di Peppone e Don Camillo, tradotto e venduto in tutto il mondo, non gli venne mai riconosciuto uno straccio di premio Strega o un Campiello, un Viareggio, un Fico d'India d'oro. Piuttosto, lo ricorderete, venne messo in galera. Sì. L'Italia si riconosce nei riconoscimenti che non dà. Ah, un altro, per esempio, Indro Montanelli, padre del giornalismo moderno. Altro premio l'Italia non seppe dargli, se non le pallottole che i giovanotti della sinistra rivoluzionaria ebbero a ficcargli nelle ginocchia con una sparatina consumata in un mattino qualunque a Milano. A Milano, per l'appunto, nella città del Corriere della Sera, il primo giornale d'Italia che, nello sforzo di dare un riconoscimento a Montanelli, potente nel mettere l'Italia allo specchio, così del giorno dell'attentato titolò: ferito un giornalista. Perfino Padre Pio, Giovanni, se vogliamo dirla tutta, ebbe difficoltà a farsi riconoscere dalla Chiesa. Insomma, nei riconoscimenti che non dà c'è l'Italia, stronzetta degli uomini chic e delle femmine pettate, come il cinema italiano che coi Davidi di Donatello non riconosce Checco Zalone, conosciutissimo peraltro dal pubblico. Il superbo Zalone, che già rispetto a Totò gode di un vantaggio, cioè quello di essere rivalutato senza la necessità di morire prima, non ha avuto manco la fionda del David. L'Accademia del Cinema ancora una volta ha voluto cantarsela e suonarsela. L'unico commento con Totò potrebbe essere: ho detto tutto. Ma io faccio appello ad una hit meravigliosa dello stesso Zalone. Il titolo è, spero di non sbagliare la pronuncia, La Cagada. Eccola, in ascolto. La roba de marca, la macchina del lusso, la dinera dell'incasso, la quenta in Svizzera, la vacanza esotica. Giovanni, ci vuole un tuo commento su sta cosa di Zalone. Dai, un minuto e il ritornello almeno. Dichiarata. Si te gusta la serata, ma te manca la moneta, non sentirte disperata. Vabbè, saltò il ritornello, era prima, il ritornello non l'ha messo, non si sa. No, ma no, scusa, era messo, ma ci abbiamo parlato. Minori, io voglio sapere da te questa roba, no, di Zalone. Io sono rimasto senza parole, senza e parole. Quello gli ha tenuto su, cioè, il settore. No, ma è proprio il cinema è stato in piedi grazie a Zalone, però ha fatto troppo. Forse ha fatto troppo. Perché, come dice un tweet Battista oggi, perché non si intona con Red Carpet. Con Red Carpet. Vai col tuo... Salamino. No. Canzoniere. Vabbè, dai. Se bronzo, pietra, terra e mare sconfinato sono travolti dal potere spietato della morte, come potrà opporsi la bellezza a tanta furia se il suo vigore è pari all'anelito di un fiore? 800 24 00 24, numero verde per chi vuole indovinare il canzoniere e telefonarci, oppure 349 238 6666 con un sms. Mario, c'è ancora una viabilità. Mix 24. Voglio che il mondo intero ascolti quello che ho da dire. Che cosa avete fatto per salvare i nostri figli? Quali stupide decisioni avete preso? Quanto ancora durerà questo strazio? Quanto prendono i nostri ragazzi? Ditelo! $50 al mese! E ora sono rinchiusi nel fondo dell'oceano! È per fargli fare questa fine che ho tirato su mio figlio? Dove sono i vostri figli? Non ce n'è nessuno laggiù! E allora chi ci può capire? Strappatevi quegli stupidi gradi e poi sparatevi in testa, bastardi! Che cosa avete fatto per salvare i nostri figli? Una madre disperata accusa. Sono passati già 7 giorni dalla tragedia del Kursk. Una storia che tiene con il fiato sospeso la Russia e il mondo intero. È il 12 agosto del 2000. Il Kursk, uno dei più grandi sommergibili nucleari in servizio, affonda con 117 uomini a bordo. Moriranno tutti. Anche oggi il dramma del Kursk è uno dei fallimenti più gravi di Vladimir Putin, il leader russo che, malgrado le numerose affermazioni internazionali, non riesce a nascondere le tante ombre del suo potere. Dopo 16 anni la tragica sorte del sottomarino atomico è ancora una condanna senza appello per il presidente e per i vertici militari russi. Cosa è successo nelle acque del mare di Barents? Quali segreti nasconde quella bara d'acciaio? Kursk. Una trappola mortale. Le bugie di Stato, il dramma dei parenti, il mistero dei mancati soccorsi. Qui a Mix 24, il giallo della storia. Dopo il giornale radio. Mario, c'hai ancora una bolla? Sì. Questi sono gli SDC. Che Franco voleva. Dov'è Franco? È già sparito. Un disastro. Allora, Giovanni, sempre per restare, diciamo, con un filo conduttore, dal tema appunto del lavoro del Jobs Act, passando per la macroeconomia e quindi sì, poi l'energia e i suoi prezzi come influenzano il PIL, eccetera, andiamo alle trasformazioni nel mercato del lavoro, quelle che secondo me sono fortemente sottovalutate dalla politica, in particolare l'automazione e la virtualizzazione, certo, del lavoro. C'è un dato oggi, secondo me, che dovrebbe far riflettere tutti per, come trend, come tendenza per i prossimi anni, ed è quello che riguarda Intel, cioè il gigante produttore dei microchip, che nei prossimi anni, segnatevelo sul taccuino, licenzierà 12.000 persone. 12.000 nei prossimi anni. Perché? Perché è dovuto tutto allo sviluppo dei servizi in cloud e al declino del consumo di personal computers. Voi direte, vabbè, e Intel chi se ne frega? No, poveri illusi, perché se declina il mercato dei PC significa che chiudono i piccoli negozi vicino a casa, per esempio, tanto per dirne una. Se i servizi vanno in cloud, molto probabilmente ci saranno meno addetti nei servizi, diciamo, che vedevano delle persone a fare un certo tipo di lavoro. L'automazione è una forza distruttiva enorme e non c'è ancora una politica per aiutare a sostituire, certo, i posti che si perdono. Vabbè, e adesso intanto col professor Roberto Bernabei commentiamo, come tutti i giorni, le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste più importanti del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. Annals of Internal Medicine, febbraio 2016. Vaccinazioni negli adulti sopra i 19 anni. Un comitato di esperti, stabilito ad hoc statunitensi, ha rivisto la pratica delle vaccinazioni, che ricordo per un'ulteriore volta che non sono valide solo per i bambini nel primo anno di vita, ma ci sono delle vaccinazioni, ne parleremo più in là, che devono essere fatte. Sono fonte di maggior longevità e certamente di maggior qualità della vita. Questi esperti statunitensi allora raccomandano che ci sono due nuove vaccinazioni contro la meningite meningococcica gruppo B per i pazienti a rischio. Sono quelli che hanno l'avventura di poter essere esposti al meningococco o, per esempio, una categoria di pazienti come gli splenectomizzati. Sono più a rischio di avere questo tipo di infezione. Poi c'è un vaccino contro il papillomavirus da utilizzare sia nei maschi che nelle femmine, e che sono confermati, confermata la necessità di fare a qualsiasi età i due vaccini antipolmonite pneumococcica in sequenza, quello contro i 13 antigeni e quello contro i 23. Ma ricordo che, oltre a queste che sono le raccomandazioni più recenti, bisogna, oggi in questo momento non è stagione, ma lo ricordo, poi ne riparleremo a settembre, bisogna vaccinarsi contro l'influenza dopo i 65 anni e tutte le categorie a rischio, quelli con malattie croniche, e c'è anche la vaccinazione contro il fuoco di Sant'Antonio, l'herpes zoster, che certamente impedisce la neuralgia postherpetica e quindi fa una ottima qualità della vita. E per finire, Gloria Guerrera, che cosa ha scelto per voi oggi, per noi? Oggi una canzone per chi, mentre tutti smaniosi l'attendono, invece la teme, anzi la odia. Bruno Martino, Estate. Estate, sei calda come i baci che ho perduto, sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare.